benvenuti al Red Reading 9. Red Reading è... che cos'è? Per noi è un atto d'amore, veramente, proprio un atto d'amore, un'urgenza, un incontro tra il teatro, i libri, una traduzione assolutamente sentimentale da alcuni libri che in questi anni ci stanno dicendo qualcosa e che raccontano storie, a volte sommerse, a volte meno, che però ci riguardano. E quindi è proprio una traduzione sentimentale, un esercizio di vicinanza, un abbraccio, come quello del libro del grande Edoardo Galeano, a cui stasera dedichiamo questo libro. Un abbraccio che non è un addio, ma è un incontro. Questo è il Red Reading. Ripartiamo da quello del mese scorso, perché questo è un ciclo di tre Red Reading, tutti collegati tra di loro. L'ottavo era Roma Ribelle. Abbiamo finito con questa atmosfera, con Trilussa che diceva che da felicità una piccola cosa. E abbiamo finito parlando della Repubblica Romana, dei luoghi ribelli di questa città, della Repubblica Romana, esempio di una costituzione, di un immaginario proprio di governo, davvero molto più avanti di tutti quelli che noi abbiamo in questo momento, di una città appunto e dei suoi luoghi ribelli che sono metafora della città, ma non solo, forse del desiderio di un paese, di un governo. Infatti il secondo appuntamento era proprio su questo luogo, che è appunto il tema del governo, del governare come, di che immagine abbiamo, di quale paese, che paese vogliamo dopo aver attraversato la Roma ribelle. E allora siamo partiti da questo libro, La felicità al potere, di Pepe Mujica, curato da Cristina Guarnieri e Massimo Sgroi della casa editrice ed editori internazionali riuniti, che con grande passione hanno pubblicato questo libro dopo un incontro con lui, dopo un'intervista. Partiamo da qua, da questo libro che parla di felicità, di tempo da recuperare. E ricominciamo proprio dalla tua intervista. Finalmente alle 6 arriva il nostro turno, scrive Cristina. Lui si alza dalla sua scrivania, ci viene incontro con mano larga, sorridente. C'è qualcosa in quello che dice che fa vibrare l'anima. Una cifra originale, soggettiva, che lo distingue dagli altri politici del mondo. La cosa più preziosa che ho portato con me dall'incontro è l'invito che Mujica suggerisce a ogni giro di frase del suo discorso. È un invito discreto ma intenso, che prende forma di domanda. Che cosa succede quando una persona si chiede che cosa la rende felice? Cosa potrà accadere nella sua vita? Credevo fosse un uomo con una bisaccia piena di risposte e una vita impastata di coerenza e determinazione. Invece ho incontrato qualcosa d'altro e di più. Ho incontrato un saggio che ha posto al centro della propria esistenza una domanda sulla felicità, che seguendo questa speciale bussola ha concepito ogni sua scelta di vita come una risposta a quella domanda. Un uomo che non offre ricette a nessuno, non chiede di essere seguito, supplica piuttosto i giovani di non considerarlo un modello o un guru. I suoi discorsi traboccano di vita e di amore per l'esistenza. Non c'è traccia in lui di un culto della sofferenza, nessuno sguardo al passato, nessuna rivendicazione. Le sue parole sono lanci in avanti, verso il futuro. E se un punto di partenza si concede è di riconoscere e far appello alla singolarità di ciascuno. Non chiedermi come vivo io, chiediti piuttosto come vivi tu. Non fare come me, siamo diversi. La sobrietà che io ho scelto non è un paradigma o un vanto, ma soltanto la via su cui io incontro la mia felicità. Tu prova a chiederti dove troverai la tua. Non conformarti, osa seguire la tua strada, osa godere della vita. Thank you. Sono un uomo del sud. Vengo dal sud. Il mio paese è una terra pianeggiante, dolce, temperata, ricca di bestiame, con una storia di porti, cuoio, tasajo, lana e carne. Il mio paese è posto in un cantone importante. Il Rio della Plata non è un fiume, ma un estuario, creato dalla congiunzione di due grandi fiumi. Uno in particolare, il Paraná, che scorre attraverso il cuore sud dell'America. Il gioco di questi due fiumi, nel suo capriccio, quando i corsi d'acqua si uniscono, spinge il fango a destra e la sabbia a sinistra. Il fango ha dato vita alla pampa argentina, questa meravigliosa, inesauribile fonte di risorse e di cibo. Ci sono stati decenni sanguinosi di lance e cavalli, fino a che, al volgere del XX secolo, si potrebbe dire che la socialdemocrazia sia stata inventata in Uruguay, perché al volgere del XX secolo questo paese divenne avanguardia in campo sociale, nello Stato, nell'istruzione. Per quasi 50 anni il mondo ci ha considerato una specie di Svizzera. In realtà, in campo economico eravamo figli bastardi dell'impero britannico, e quando quello soccombe abbiamo dovuto sorbirne il fiele amaro sotto forma di funesti termini di scambio, rimanendo così stagnanti, agognando il passato. Quasi 50 anni trascorsi a ricordare il Maracanã, la nostra prodezza sportiva. Se oggi siamo risorti in questo mondo globalizzato, è forse grazie a quanto abbiamo imparato dal nostro dolore. Con la mano levanta al passato di facendo. Mi faccio carico delle culture originarie schiacciate, dei resti del colonialismo nelle isole Malvine, degli embarghi inutili a quel caimano sotto il sole dei Caraibi che si chiama Cuba. Mi faccio carico di un gigantesco debito sociale, della necessità di difendere l'Amazzonia, i mari, i nostri grandi fiumi d'America. Mi faccio carico del dovere di lottare per una patria per tutti e affinché la Colombia possa trovare il cammino della pace. E mi faccio carico del dovere di lottare per la tolleranza. La tolleranza è il fondamento per poter convivere in pace, accettando che nel mondo siamo differenti. Scrutare lo scenario della natura. Radiamo al suolo le foreste vere e impiantiamo salve di cemento, affrontiamo la sedentarietà con i tapis roulant, l'insonnia con le pasticche, la solitudine con dispositivi elettronici, ma siamo davvero felici? Siamo davvero felici? C'è un marketing per tutto. Per i cimiteri, i servizi funebri, le maternità, marketing per i padri, per le madri, per i nonni, per gli zii, passando per le segretarie, le automobili, le vacanze, tutto. Proprio tutto è commercio, anche i bambini, la loro psicologia, terreno fertile, assicurato per il futuro. Il piccolo uomo medio delle nostre grandi città deambula tra le finanziarie e il tedio degli uffici, sogna continuamente le vacanze, la libertà, sogna sempre di poter chiudere i conti in sospeso fino a quando un giorno il cuore gli si ferma e... Dopo di lui verrà un altro soldato a sfamare le fauci del mercato assicurando l'accumulazione. Non mi stancherò mai di ripeterlo. Nel mondo spendiamo 2.000 milioni di dollari al minuto in bilanci militari. Non mi venite a dire per favore che mancano i soldi. Il punto è come li stiamo spendendo e per che cosa. Più cresce la ricchezza, più aumenta la disuguaglianza. L'umanità possiede risorse per fare cose grandiose, ma ciò che impedisce di farle è l'egoismo. Riuscire a procurarsi due secchi d'acqua non è un problema dell'Africa, è un problema dell'umanità intera. Io non credo nell'avventura individuale, se non si ha la pazienza della costruzione collettiva. Il miraggio di una salvezza individuale è un modo per concedere terreno all'avversario senza combatterlo. Le battaglie si possono perdere perché sono superiori alle nostre forze, ma si possono perdere anche perché non ci siamo organizzati per vincerle. Quella che ci aspetta è una lunghissima battaglia culturale. 30 anni fa pensavo che lo scontro fosse contro il capitalismo. Certamente lo è, ma c'è anche molto di più. È una battaglia di civiltà, uno sforzo per la creazione di un'altra civiltà, di un'altra umanità. Beato il tempo in cui il mio e il tuo non ci separavano. Andiamo avanti portando il peso di una pena preistorica. Abbiamo fatto un progresso enorme dal punto di vista materiale, ma abbiamo lasciato lungo il cammino la fraternità di quando l'uomo viveva in funzione degli esseri amati che componevano il noi. E qui lui già apre al prossimo Red Reading, a furore, in cui si parla del noi. L'individualismo e il mondo dell'egoismo ci hanno permesso di creare, in quanto motori, questa civiltà portentosa dalla quale dobbiamo raccogliere, trasmettere e apprendere molto, senza mai seppellire o rinnegare il percorso fatto. Ma ci è anche sommersa una pena preistorica, perché abbiamo dovuto amputare il meglio di noi stessi che si trova nelle viscere dei pochi popoli primitivi che ancora rimangono sulla terra. De punti da patto car, o subendo un escalion, escribendo tra canción que escaleras al cielo. Busco un sitio para saltar, que me da las pavolas, realidad a ras de suelo. Questa storia, perché lei con tutta la sua passione se n'è andata fino a Montevideo. di parlare con Mujica, che, di cui non ci interessa assolutamente fare nessuna celebrazione, ci interessano dei punti di questo discorso di questo, e di questo libro. Intanto grazie, sto presentando il libro in tante città d'Italia e confesso che questo è il libro più bello, perché Tamara ha questa capacità di palpitare proprio. Immediatamente ha introdotto, ha commosso le parole di Mujica, lette, ancora non mi era capitata una cosa così, e sono parole su cui ho trascorso tanto tempo per tradurle, e questi discorsi che sono vibranti, vi invito anche a vedere come Mujica parla, appunto come dice Tamara, non tanto per celebrare questa icona, questo mito del XXI secolo, quanto per vedere come bella, come diventa bella la politica quando diventa, è impastata di una passione, nel senso della polis, dello stare insieme, che è poi il senso di questo percorso che Tamara ha tracciato per questi retreat. Vi racconto brevemente come è nato questo libro. Cercavo Mujica già da un annetto, poi contingenze di altre ricerche sulle nonne di Plaza de Mayo, la storia dei desaparecidos argentini, che pure ci ha unito con Tamara, mi ha portato in Argentina, e a quel punto ho scritto alla presidenza dicendo: io sono a Buenos Aires, se per caso potessi vedere il presidente, Montevideo lì vicino e l'Uruguay all'angolo. E mentre stavo visitando le cascate di Iguazú, arriva la mail: può venire dopo domani, perché okay, sussurro al petto, e lì c'erano mia madre, il suo compagno e poi un'amica argentina che è una pazza curiosa, che ha preso le ferie e ha detto: vengo anch'io a Montevideo a incontrare proprio Mujica. E ci siamo imbarcati sulla nave, poi il pullman, insomma un viaggio un po' tipo, non so se avete visto il concerto, il film, e sembravamo proprio una massa di zigani, così randaggi, arriviamo a Montevideo, sciopero dei taxi naturalmente, e quindi ci buttiamo su un carro bestiame supplicando di portarci alla sede presidenziale. Allora, chi è Pepe Mujica? È un uomo che è rinomato nel mondo perché si taglia il 90% dello stipendio per darlo ai bisognosi, che ha rinunciato di vivere nella sede presidenziale quando il 1 marzo del 2010 è diventato presidente della Repubblica Orientale dell'Uruguay, e perché continua a vivere nella sua fattoria di 50 metri quadri, ama arare la terra, ama il suo trattore, si presenta al mondo appunto come un uomo sobrio. Sobrio, non austero, perché lui dice l'austerità è un termine prostituito in Europa. Questo per me è un messaggio chiave, innanzitutto perché, come appunto dico anche nel libro, io pensavo di incontrare una sorta di icona del sacrificio, della mortificazione di sé, dell'austerità, appunto come siamo soliti intenderla in Europa e come l'abbiamo anche subita, no? I nostri vari governi ultimi. Ecco, tutt'altro, è veramente un uomo gaudente, cioè che inneggia alla vita, è un uomo che, dico rapidamente la sua storia, inizia come fioraio, piccolino, poi già a 13-14 anni si butta in politica. Ah, ok, comunque per dire che è un uomo che ha vissuto il carcere, l'isolamento, le torture, una storia in cui potrebbe tranquillamente rimanere inchiodato, come tante persone, sia a livello diciamo di tragedie di massa e sia a livello esistenziale. Se ci pensate, il rischio è sempre lo stesso, no? Anche per ciascuno di noi, di rimanere fissati, inchiodati a un trauma del passato. Ecco, è un uomo che nonostante abbia vissuto delle cose inenarrabili, questo passato, come dice lui, è uno zaino che tu riempi, però è bene che guardi avanti, che te lo tieni alle spalle questo zaino, cioè devi guardare al futuro. Mujica ripete sempre, anche nel libro e anche nei suoi discorsi, la vita è innanzitutto avvenire, futuro, speranza, azione che si slancia in avanti. Quindi questo per me è stato forse uno degli insegnamenti più preziosi, perché spesso si indugia, ci si crogiola, no? Nelle proprie sofferenze, nelle proprie inquietudini, nelle proprie anche apatie. Noi viviamo un momento di crisi, di stagnazione, in cui veramente lo scoramento potrebbe assalire chiunque da un momento all'altro, invece no, perché come dice Mojica non si lotta mai per il passato, si lotta sempre per il futuro, perché le generazioni che vengono dopo di noi abbiano un mondo migliore del nostro, abbiano condizioni materiali e spirituali migliori delle nostre. E quindi questo credo che sia un messaggio che, al di là della figura, al di là dell'icona, al di là del mito e anche del mito mediatico che ne è stato fatto, è un messaggio con valore universale, perché intercetta proprio, appunto, come hai letto bene prima, anche quello è un passaggio importante. Questo è un uomo che ha creduto in ideologie che riguardavano le masse, no? Il comunismo, il socialismo, grandi ideali che riguardavano noi indistinto. Ed è un uomo che adesso, dopo aver attraversato il Novecento in questo modo, con queste battaglie, fino ad essere guerrigliera, a prendere e imbracciare le armi in nome di questi ideali, punta sulla singolarità. Cioè, può esistere un noi che non abolisce la cifra soggettiva, la particolarità del singolo individuo. Un altro noi, che non è quella collettività informe dove tutti obbediscono servilmente a un ideale, sono chiusi nei loro recinti, ma dove c'è spazio perché ciascuno si possa porre la domanda: che cosa mi rende felice? Ecco, questo per me è stato ovviamente emozionante incontrare... Cosa rende felice? A me rende felice in questo momento della vita, che appunto in un momento critico della casa editrice che dirigo, dove veramente tutto suggerirebbe di dire basta, cioè lascia perdere, perché non si fanno i soldi, perché non si vende, perché è un'epoca veramente dura in Italia, un paese di non lettori, allora tutto suggerirebbe di smettere, e mi rende felice pensare che un libro come questo sta passando di mano in mano, rende felice tanta gente, ricevo tante lettere di lettori, tanti inviti in un modo impressionante dal nord al sud della penisola, scoprendo realtà territoriali meravigliose, piene di passione, di vita. Questa è un'emozione che non apprezzo. Sono nato in un paese, l'Uruguay, che ha sempre mantenuto un rapporto simbiotico con la terra. Per noi uruguayani non è soltanto il suolo dove poggiamo i piedi, è la nostra stessa vita. Le mie famiglie di origine sono contadine e dentro di me in fondo lo sono sempre stato anch'io. Da loro ho imparato l'importanza della terra, da loro e dai giapponesi. Molti vivono in Sud America, molti giapponesi. Fu una famiglia di queste, i Takata, a insegnarmi a coltivare i fiori. Mi insegnarono l'arte di far crescere queste meravigliose opere della natura. Ricordo il mio sguardo incantato nel vedere la terra colorarsi all'improvviso di rosso, arancione, bianco, viola, turchese. E ancora oggi il mio lavoro principale alla fine consiste nel vendere i fiori. La mia prima militanza è stata all'interno di un gruppo anarchico. Che volete, a 14 anni per forza, quando avevo più o meno 14 anni, appunto, all'epoca della scuola media, ho maturato ben 65 anni di militanza politica. Nel 1959 Herrón diventò ministro dell'industria e del lavoro con il primo governo dei Blancos, dopo quasi 100 anni di potere ininterrotto della fazione avversa, i Colorados. Collaborai con lui, diventai segretario generale della gioventù, ma in quel periodo io avevo anche maturato un'altra cosa, l'idea di diventare un ciclista professionista. Avevo sempre amato questo sport, competizione popolare, vicina allo spirito di sacrificio e dedizione che solo la parte non ricca di un paese ha. Poiché ancora non avevo la maturità di un vero corridore ciclista, io e il mio amico Nenè partimmo con la sua meravigliosa Triumph 500, si dice così, Triumph, come aiutanti di una squadra professionista. Alla prima tappa del Giro dell'Uruguay il vincitore ricevette come premio una latta di pittura Roncalite da 4 litri, beh, proprio era un altro mondo, era davvero un altro mondo. Gennaio 1960, si apre una crisi governativa, Erro viene destituito, al suo posto Nardone dispiega i carri armati in Piazza dell'Indipendenza per impedire nuove manifestazioni popolari, obbedendo alla volontà del Fondo Monetario Internazionale che aveva paura dell'esempio di Cuba. In quel periodo mi dividevo fra il Comitato dei Giovani Disoccupati, la Lista 41, i vari comitati di lotta operaia, universitari e soprattutto i comitati di appoggio alla rivoluzione cubana. Un caos primitivo, la rivoluzione cubana, pieno di poesia, qualcosa di straordinariamente popolare che nasceva dall'amore che la gente aveva per la propria vita e la propria nazione. Andai al primo congresso della gioventù latinoamericana come delegato per la lista 41. Il cuore mi batteva forte, ero emozionatissimo, e c'è cominciò il suo discorso. Per noi fu un momento memorabile, parlò in nome di tutti coloro che stavano cominciando a soffrire le repressioni militari, compresa la sua Argentina, dove i sindacalisti, gli studenti, gli oppositori del regime venivano arrestati e dove l'aeroporto era stato già dichiarato zona militarizzata. Le mie braccia e le braccia di tutta Cuba sono aperte per accogliervi, per mostrarvi ciò che di buono e ciò che di sbagliato è la rivoluzione cubana, in modo che quando tornerete nei vostri paesi possiate sapere e raccontare di questa straordinaria università di esperienza, di questa rivoluzione nata in un'isola dei Caraibi. Poi passò a un attacco durissimo contro il governo di assassini comandati dal dittatore Batista e dai suoi mandanti, il più grande esercito coloniale della Terra. Ascoltavo il discorso del Che e pensavo al mio paese e alle nubi scure che si stavano addensando. Parlai con i tanti giovani che venivano dal Cile, dall'Argentina, da tutta l'America Latina. Ero entusiasta. Cuba mi affascinava per la sua rivoluzione e per tutto quello che c'era, per cosa significava per il popolo. Il paese era caotico, popolare, dolce, complesso, ma i cubani erano felici di essere così, liberati dalla dittatura. Tornavano a vivere l'essenza della propria patria. Il paese successivo fu l'Unione Sovietica. Al di là del fascino, non riuscivo a tollerare l'onnipresenza di una burocrazia rigida, poco disposta alla libertà. Mi rimase sempre un'avversione nei confronti di una concezione rigida del comunismo, che più che pensare alla felicità del popolo mirava a conservare il potere, il personalismo dei propri leader. 15 aprile 1961. Gli Stati Uniti attaccano Cuba e in Uruguay lo scontro sociale si fa duro. Sostenuti dalle grandi lobby economiche internazionali, in particolare quelle statunitensi, vengono chiusi spazi di libertà e di diritto. Il 17 agosto del 1961 Ernesto Che Guevara tiene una conferenza all'Università di Montevideo. Il Che parlò del diritto dei popoli di vivere una vita migliore lottando in democrazia, ma aggiunse che quando i diritti di questa democrazia fossero cessati, rimaneva solo la forza per difendere la propria esistenza verso i poteri più grandi. La forza è l'ultima risorsa. La forza è la risorsa definitiva che spetta al popolo. Un popolo non può mai rinunciare al ricorso alla forza, soprattutto quando essa si esercita contro chi la usa in forma indiscriminata. Le parole del Che sembravano un presagio, un'anticipazione di quello che sarebbe avvenuto di lì a poco. E infatti, mentre usciva dall'università, furono sparati contro di lui parecchi colpi di pistola. Nessuno raggiunse il Che, ma il professore di storia Arbelio Ramirez, che si trovava accanto a lui, cadde morto. E ormai non c'erano più illusioni. La deriva fascista si stava facendo sempre più insistente, la polizia caricava con ferocia tutte le manifestazioni studentesche e operaie, mentre i gruppi paramilitari di destra la facevano da padrone. Le organizzazioni sindacali si prepararono allo sciopero generale nel caso in cui un colpo di Stato avesse portato direttamente al potere i militari. Molti di noi parlavano di organizzazioni armate clandestine di resistenza. Ormai era impossibile difendere i diritti del popolo con la democrazia. Al principio furono effettuati una serie di assalti a filiali bancari allo scopo di reperire denaro per sostenere le lotte sindacali e per acquistare armi, ma costarono arresti e morti. Ma il movimento diventava sempre più unito, sempre più un'unica entità, fino a che nel 1965 giunse a chiamarsi Tupamaros, come l'ultimo re dell'impero Inca, discendente di Tupamaru, che nel 1781 si definì Tupamaru II, capeggiò la rivolta contro gli spagnoli, fu catturato e ucciso. Il riferimento all'indipendenza dei popoli andini dagli interessi delle potenze straniere e la volontà di creare uno Stato più giusto ed egualitario era così assolutamente evidente nel nome che avevamo scelto, Tupamaros, Movimento di Liberazione Nazionale. Io non entrai immediatamente in clandestinità. Facevo da tramite fra le battaglie legali e di rivendicazione e l'organizzazione, aiutando i militanti latitanti e nascondendo armi in depositi sicuri. Nel 1966 morì Carlo Flores, un giovane di 23 anni, con tre figli. Oltre a essere il primo morto del nostro movimento, cosa che provocò in noi una grande motivazione, informazione condusse la polizia a identificare diversi militanti clandestini e quindi a spalancare loro le porte delle prigioni. Durante la rapina in una fabbrica per raccogliere fondi per le lotte sindacali fui catturato. L'unica via d'uscita era farmi passare per delinquente comune. La detenzione durò 8 mesi, come ovvio, ma non dovrebbe esserlo, per niente. Imparai cosa fosse la tortura. Le cose cominciarono a evolversi in maniera esponenziale. Avevamo iniziato un processo di lotta armata e ora ci trovavamo ad affrontare problemi del tutto nuovi. Ma l'Uruguay non aveva foreste o montagne in cui nascondersi. E inoltre più del 50% della popolazione era concentrato nelle città, in maggioranza nella capitale, a Montevideo. Si trattava di far diventare la capitale una giungla e nonostante lo stesso Fidel Castro non lo ritenesse possibile, ci riuscimmo. Ogni quartiere, ogni sotterraneo, ogni buco nascosto poteva diventare una nostra roccaforte. Conoscevamo ormai la città come le nostre tasche, avevamo a disposizione una mappatura completa che comprendeva tutti i luoghi, quelli conosciuti e quelli che nessuno sapeva esistessero, fogne comprese. Studiamo prima tutti i manuali possibili sulla guerriglia urbana, poi decidemmo che la nostra nazione aveva bisogno di soluzioni diverse. Così le inventammo. 1966. Jorge Pacheco Areco diventa presidente. Fa chiudere immediatamente tutti i giornali e le radio d'opposizione, mette fuori legge 6 movimenti politici, fa arrestare chiunque si opponga al regime e consegna il paese nelle mani degli agenti della CIA, tra cui il famigerato Dammitrione, responsabile dei più sofisticati metodi di tortura. I nostri attacchi cominciarono a farsi sempre più significativi. Nel passaggio alla clandestinità scelsi come nome di battaglia Facundo, in memoria di un combattente argentino, Facundo Quiroga, dotato di grande coraggio e umanità. Il popolo era completamente dalla nostra parte, stravedeva per noi e le richieste di adesione diventavano ogni giorno più consistenti. Ironia della sorte, fu proprio questo grande successo a diventare la nostra debolezza. 5.000 persone del movimento, una rete di oltre 30.000 simpatizzanti. È difficile tenere nascosta tutta questa gente, no? Per commemorare l'uccisione del comandante Che Guevara, avvenuta 2 anni prima in Bolivia, decidemmo l'8 ottobre del 1969 di compiere un'azione mai tentata prima. Occupare per un certo tempo un'intera cittadina. Avevamo occupato la caserma dei vigili del fuoco, quella di polizia e rapinato 3 banche. Ma al ritorno a Montevideo ci arrivò la notizia tragica. 3 di noi, Alfredo Pultelli, Jorge Salerno e Riccardo Zabalza, erano stati uccisi. Dalle notizie che ci erano pervenute era stata una vera e propria esecuzione a sangue freddo. La colonna 10 era l'unica rimasta intatta e ora buona parte delle responsabilità di continuare la lotta ricadeva su di noi. Ricordo come fosse ieri i volti di allora, quello di Rosenkopf, detto il Russo, Raul Gallinares, Horacio Ramos, il gorilla, Amilcar Fernandez, il polacco, Carlos Tasistro, il negro, e Ledis Castro, Diana, Juan Carlos La Rosa, che noi chiamavamo Marcos, morì presto durante un'azione. Tutti i volti e i nomi che non ci sono più mi hanno accompagnato e continuano a farlo finché avrò vita. Desaparecidos, los muertos sin tumba, las tumbas sin nombre, y también los bosques nativos, las estrellas en la noche de las ciudades, el aroma de las flores, el sabor de las frutas, las cartas escritas a mano, los viejos cafés donde había tiempo para perder el tiempo, el fútbol de la calle, el derecho a caminar, el derecho a respirar, los empleos seguros, las jubilaciones seguras, las casas sin rejas, las puertas sin cerradura, el sentido comunitario, e il sentido comune. Los unos a los otros. Después han pasado muchas décadas y sin renunciar a lo que soñábamos, aprendimos que lo imposible cuesta un poco más. Ayer estuvimos en la agrupación que se llama Antes que Nada y por encima de todo, aprendido, y antes no lo sabíamos, que la vida humana es hermosa, que no se debe de cometer el error de sacrificar una generación en nombre de un sueño, y que el sueño hay que irlo construyendo todos los días y a poquito, como quien levanta una pared. Este vídeo, questa intervista, l'abbiamo grazie a Giancarlo Ceraudo, a cui ho chiesto di essere qui con noi stasera. Insomma, lui ha attraversato l'America Latina, ha intervistato Pepe, ma non è solo questo. Tutte le immagini che cuciono il nostro racconto sono le sue, che ce le ha donate per questa serata. E il suo è uno sguardo interessante su questa terra. Insomma, io faccio il fotografo anche per un motivo molto semplice: sono molto pigro, per cui ho scelto una forma di comunicazione statica e muta. Insomma, parlo pubblico, non abbiamo molto. Però inizio raccontando un aneddoto che si è purtroppo concretizzato due giorni fa quando è morto Don Antonio Legano, e con la persona con la quale con questo aneddoto alla fine si è vissuto, ci siamo sentiti dall'Uruguay e lui mi ha detto: lo dovresti scrivere tu. Lui che è giornalista scrittore. Per cui mi sono messo altro ieri, l'ho scritto, credo oggi l'abbiamo pubblicato in Uruguay. Lo leggo, scusatemi, ma... e mi sembra anche inerente a questa cosa del tempo, della felicità. Sulla felicità, quando ho letto una cosa sulla felicità, ho detto: io non voglio essere un guastafeste, perché l'America Latina in realtà socialmente è tutt'altro che felice, per cui, però, per la mia esperienza. Lo leggo in spagnolo. Tanto qua si è parlato America Latina, un po' di spagnolo non fa male, cercherò di leggerlo, poi se qualcuno non capisce. Si chiama Lamentablemente en estos tiempos no puedo. Sobre la muerte de Galeano, una amiga uruguaya me dijo: se fue un referente. ¿Un referente qué es? Creo que es alguien quien, a pesar de la distancia personal, uno le presta atención, alguien que nos marca un camino, que es presente en el desarrollo cotidiano de cada uno, que es parte de los valores que nosotros tenemos por delante. Creo que Galeano fue un referente para mí. Leí Las venas abiertas cuando tenía 16 años. Sin ese libro, mi historia personal y profesional no se hubiera desarrollado en América Latina. Ese libro me dio la herramienta para entenderla y amarla. Ese es un cuento de una simple anécdota. Diría, parafraseando el título de una película de Carlos Sorín, una historia mínima. Hace un mes atrás le comenté a mi querido amigo y periodista uruguayo Antonio Ladra que me gustaría contactar a Galeano y preguntarle si estaría interesado y disponible para escribir una introducción histórica sobre América Latina en los años 70. Los terribles tiempos de las dictaduras que asolaron el continente. Era para mi libro Destino Final, un ensayo fotográfico sobre la dictadura argentina y los vuelos de la muerte. Antonio me dice que Galeano era la persona indicada, pero me advirtió que no andaba bien de salud, aunque ni él ni yo sabíamos que tan mal estaba. El 26 de marzo Antonio le mandó un mail a Galeano y el día siguiente, el 27 de marzo, contesta: estimados, lamentablemente no puedo en estos tiempos. Saludo, Eduardo. Antonio le respondió agradeciéndolo por haber contestado y con tanta inmediatez. Ayer me enteré de la muerte de Galeano y leo que entró en la clínica hace una semana atrás por un tumor en estado terminal. Hoy llamé a Antonio y nos quedamos leyendo de vuelta su mail. Esa frase nos atrapa y nos golpea. Su "en estos tiempos no puedo" es como si fuese una forma poética de nombrar a la parca, a la muerte, como pidiendo disculpa que el tiempo ya no es más su amigo. Me quedo pensando que en esa época, donde mucha gente nunca contesta, nunca tiene tiempo, y donde la educación parece no ser parte del andar cotidiano, un gran escritor encuentra el tiempo de decir que ya no tiene más tiempo y se lo dice a alguien que ni siquiera conoce. Me quedé con ganas de hablar con Galeano. Hasta siempre. Parlando con una mia amica uruguayana, mi ha detto: se n'è andato un referente. Io ho detto, dentro di me, ho detto: che cos'è un referente? Uno che è una persona che ha, nonostante la distanza personale, magari non si conosce, qualcuno che diventa un riferimento per noi anche nella vita quotidiana. E per me Galeano è stato un referente, un riferimento. Ho letto La vena aperta dell'America Latina, che forse è il suo libro più importante, quando avevo 16 anni, e probabilmente la mia storia personale, non solo quella professionale, poi insomma questa cosa della professionalità non mi piace tanto, insomma faccio quello che mi piace fare e lo faccio per la mia vita, non per produrre un bel lavoro. E mi ha portato in America Latina, e credo che questo libro sia stato una cosa fondante. E questo è un semplice aneddoto, perché un mese fa parlo con Antonio e gli dico: guarda, già ne avevamo parlato, chiamiamo Galeano perché vorrei che facessi l'introduzione al mio lavoro, al mio libro Destino Finale, magari poi diremo qualcosa. E lui mi dice: sì, guarda, però non sta tanto bene di salute. Anch'io sapevo non stava tanto bene, però non sapevamo quanto. E per cui lui gli scrive questa mail e lui risponde in una forma molto breve, molto sintetica, però usando questo "en estos tiempos", che non è una cosa normale anche nel gergo spagnolo, è veramente una forma poetica quasi, no? Quasi chiedendo scusa. In quel momento non l'avevo capito, chiaramente, e quasi chiedendo scusa non avere più tempo, appunto questo tempo che pensiamo per noi tutti che sia infinito, in realtà non è più suo amico, perché stava di fatto sul letto di morte. E quando poi l'altro ieri mi vengo a sapere della morte, chiamo Antonio e lui mi dice che effettivamente rileggiamo la mail e lui mi dice, io gli dico: dovresti scrivere questa cosa. No, io mi ha colpito troppo, sto male, poi una cosa che riguarda il tuo lavoro lo devi scrivere. E alla fine concludo pensando che in un tempo dove nessuno c'ha mai tempo, dove non si risponde mai, dove l'educazione non è parte, questo lo dico anche appunto rispetto anche al mio lavoro, ma tanti, non è parte di quasi dice di un andare quotidiano, dello svolgimento normale della vita, c'è molta più maleducazione che educazione. Un gran scrittore trova il tempo di dire che non ha tempo, e soprattutto lo dice a persone che neanche conosce. E questo mi sembra una cosa molto molto forte per me, che racconta in parte chi era lui. Non lo so, in realtà in questo c'è una cosa che io ho vissuto, che credo che sia un segno distintivo dell'America Latina, che appunto che non è la felicità. L'America Latina non è un posto socialmente felice, è un posto pieno di di violenza, di contrasti, di conflitti, di contraddizioni. È molto più semplice trovare tratti e segmenti di felicità umana piuttosto che di felicità sociale. Lei ha fatto una selezione di lavori, di foto mie, ho avuto 15 anni e lavorato là, per quello ho attraversato lungo e largo, e non vedete feste, insomma, perché il mio lavoro un po' ha a che vedere con questioni sociali, però è un posto violento, un posto pesante, però che ti apre delle possibilità umane enormi, ed è una questione di distanza. Per me in America Latina le distanze si accorciano, non ci sono i filtri che ci sono altrove, almeno in altri mondi che io conosco, e ti trovi facilmente, da quello che si chiama il realismo magico in qualche maniera, ti trovi con un presidente, appunto, con un personaggio come un collega, con un narcotrafficante, con la povertà, con, in un carcere, con persone straricche, ma tutto questo in un lasso di tempo molto breve. Ti trovi con intellettuali, con scrittori, con persone che pensi, che sei abituato a pensare quasi irraggiungibili, che diventano qualcosa di, diventano un sogno, e per cui si creano pure i miti, così. Insomma, lei in realtà il mito si decostruisce, e questa parte qui, cioè, la ritrovi pure qui dentro, cioè, grande scrittore, forse uno dei scrittori più importanti contemporanei, accorcia le distanze in questa maniera. Questa è una possibilità di felicità, sì, perché quando tu accorci le distanze stai dentro altro. In fondo l'amore è pure questo, cioè, quando ti senti innamorato, quando non esiste più distanza nell'altro. E questo è una possibilità enorme, è un posto che non è felice, ma a me mi rende felice, spesso volentieri mi rende anche molto triste, perché c'è, come tutti i posti dove c'è molta disuguaglianza e molta povertà. Come sei stato bravo, basta. Giancarlo ha fatto un lavoro straordinario che si chiama Destino Finale, proprio sui voli della morte in Argentina, Desaparecidos, e peraltro con questo reportage si è aperto proprio un processo, no? Insomma, una cosa importante, andatelo a vedere, a cercare Destino Finale, è una cosa potentissima. Dalle tante abbiamo imparato a fare i tunnel, dai castori abbiamo imparato a costruire dighe, dagli uccelli abbiamo imparato a fare le case, dai ragni abbiamo imparato a tessere, dal tronco che rotolava giù abbiamo imparato la ruota, dal tronco che galleggiava alla deriva abbiamo imparato la nave, dal vento abbiamo imparato la vela. Chi ci avrà mai insegnato le cattiverie? Da chi abbiamo imparato a tormentare il prossimo e a umiliare il mondo? A un uomo del villaggio di Neguà, sulle coste della Colombia, accadde di salire fino al cielo. Al suo ritorno raccontò, disse che di lassù era stato a guardare la vita degli uomini. Disse che siamo un mare di fuocherelli. Il mondo è fatto così, un mucchio di gente, un mare di fuocherelli. Ogni persona brilla di luce propria in mezzo a tutte le altre. Non esistono che fuochi diversi. Ci sono fuochi grandi e fuochi piccoli e fuochi di tutti i colori. C'è gente di fuoco sereno che non si cura del vento e gente di fuoco pazzo che riempie l'aria di faville. Certi fuochi, fuochi sciocchi, non fanno lume né bruciano, ma altri ardono la vita con tanta passione che non si può guardarli senza strizzare gli occhi, e chi si avvicina va in fiamme. E altri esponenti del movimento entrammo nel Frente Ampio, un'alleanza che raggruppava tutti i partiti e le formazioni della sinistra uruguayana. Le carceri erano piene, fino a scoppiare. Il 30 luglio del 1971 riuscimmo a far fuggire 38 delle nostre compagne dal carcere di Cabildo, e una di queste era proprio colei che sarebbe diventata un giorno mia moglie, Lucia Topolansky. Poi fuggimmo anche noi, scavando, nascondendo i colpi di martello con partite di calcio e grida, scavando con l'ossigeno che mancava, scavando fino a trovare il tunnel scavato dagli anarchici in passato, e le fogne e l'aria che ci mancava, e lo stetoscopio Henry Engler che ci fece trovare l'esatta posizione in cui scavare, l'ultimo tratto, e 111 persone, compreso me e la padrona della casa in cui stavamo entrando, che guardava a bocca aperta il numero di uomini che uscivano dal buco sottoterra che sembrava non finire più. Eravamo di nuovo liberi. I Tupamaro, di nuovo al completo, pronti a riprendere la lotta, un nuovo nome di battaglia, Emiliano, come Zapata, di cui ammiravo la coerenza, la lotta contro i grandi latifondisti messicani. Voglio morire essendo schiavo dei miei principi, non degli uomini. Liberammo l'ambasciatore britannico Jackson, dichiarando che non eravamo disposti a sopportare oltre, e se avessero continuato a percorrere il cammino che avevano intrapreso, la nostra risposta sarebbe stata implacabile, anche la loro. Lo fu. Le nostre democrazie tremarono tutte sotto i colpi delle dittature nate per ridurre la redistribuzione e i diritti sociali conquistati e continuare a concentrare la ricchezza in mano di pochi. Le vene aperte dell'America Latina, di tutta quella gioventù di poeti che volevano cambiare il mondo sognando Che Guevara, sotto la spinta del colossale impatto culturale che significò la rivoluzione cubana nelle viscere del nostro continente, le ferite dell'America Latina, le mie ferite, quella al ventre che non si era rimarginata del tutto e mi procurava sofferenze indicibili, un nuovo arresto, e nel 1971 un nuovo presidente, Juan Bordaberry, gli squadroni della morte, il piano Condor, una nuova evasione, passando dall'ospedale del carcere alle condutture fognari, il mio nuovo nome, Ulpiano, antico politico romano, che aveva detto che le regole del diritto sono vivere onestamente, non danneggiare nessuno, dare a ciascuno il suo. E poi il 1972, cademmo uno ad uno per un tradimento, scappammo, vivemmo all'aperto, non potendo neppure accendere fuochi per non tradire la nostra posizione, in mezzo a tutto questo l'amore. L'amore per Lucia, in condizioni estreme, esposti alle intemperie. Imparammo a conoscerci, ad apprezzare quanto di bello ci fosse nell'altro, e finimmo in carcere insieme, catturati, il 17 agosto di quell'anno, e poi fu l'alba del 27 giugno 1973. I militari, comandati dal generale Gregorio Alvarez, entrarono armi alla mano in Parlamento. Iniziava così la lunga dittatura che sconvolse il nostro paese per anni. Spararono sulla folla, riempirono lo stadio di pallacanestro della capitale di prigionieri, così come fecero i generali cileni qualche mese dopo. In questo si consumò anche il nostro fallimento. Noi che quel colpo di Stato l'avevamo previsto eravamo tutti chiusi in carcere, nessuno di noi poteva guidare la resistenza contro i militari. Per 12 lunghi anni arrestarono, torturarono, uccisero chiunque si opponesse al loro potere, si fece il buio per l'Uruguay e soprattutto per noi, isolati dal resto del mondo, dentro un buco puzzolente, 1,25 m x 2, un caldo torrido, soffocante d'estate, un freddo terribile d'inverno. Non c'era un lavandino, né un bagno, non c'era niente di niente. La mia vescica malandata cominciò a perforarsi e mamma Lucy, dopo aver piantato una marea di grane a chiunque, riuscì a consegnare un vaso da notte di plastica rosa nella caserma dove ero rinchiuso. Sapevo di quel prezioso regalo, ma i soldati non avevano affatto l'intenzione di darmelo. Un giorno ci fu una festa dei militari con tanto di signore e invitati, e proprio mentre la banda stava suonando l'inno nazionale, da una piccola fessura nella porta cominciai ad urlare: «Voglio pisciare! Voglio pisciare! Voglio pisciare! Non mi permettono di pisciare! Voglio pisciare!» Alla fine, per placare le signore scandalizzate, finalmente riuscì ad averla. la mia peleda rosata, che non mi lascia più. Ad ogni trasferimento mi ci attaccavo con tutte le mie forze per non farmela portare via. E poi arrivò l'ultimo anno di prigionia, le allucinazioni. Nutrivo ranocchie e ascoltavo le formiche che parlavano ad alta voce, avevo la fissazione che nella cella ci fosse un registratore che faceva un rumore fortissimo, per cui urlavo in continuazione di spegnerlo. Poi finalmente una psichiatra mi fece portare dei libri, manuali di fisica, chimica, agronomia, zoologia, e mi salvai leggendo e scrivendo. La stessa salvezza nelle parole, lo stesso buco, lo stesso buio di un altro ospite che non è qui fisicamente, ma c'è. È Carlos Liscano, scrittore uruguaiano, poeta, direttore della Biblioteca Nazionale di Montevideo, che ci ha raggiunti stasera con le sue parole, con una lettera scritta apposta per noi, per questa serata, e tradotta da noi alla sua cara amica, a me cara quanto a lui, Marina Russo. Vivo in Montevideo, dove nasci hace 66 anni. En mayo de 1972 fui detenido por los militares, torturado y encarcelado. Salí de la cárcel en 1985. Durante los 13 años de prigionia mi mancava tutto, nemmeno più i capelli avevo. Un giorno ho recuperato la mia libertà e sono cominciati i problemi, perché la libertà non è qualcosa di dato. La libertà non consiste nel non stare in carcere. La libertà è una costruzione personale, laboriosa, che causa sofferenza e che si può perdere in qualsiasi momento, anche da liberi. Trovarsi nello stato di libertà non vuol dire essere liberi. Per essere libero bisogna scegliere, in ogni momento, ogni giorno, rispetto ad ogni situazione. Perché la libertà è assumere responsabilità. E la lotta per sentirsi libero si ripresenta adesso nella libertà. La libertà è una laboriosa costruzione individuale che esige molto tempo, molto sforzo, molta sofferenza. Anche in prigione ci possono essere forme di libertà. Quando nulla è possibile, uno fa quello che può all'interno dello stretto margine che gli è consentito. E anche se non sembra, all'interno di quei limiti c'è un territorio praticamente infinito. Poiché non è in grado di far sì che qualcosa cambi, il prigioniero lavora su se stesso, che è l'unica materia che può dominare. Alla sua trasformazione dedica 24 ore del giorno. Questa trasformazione obbliga a trasformare la lingua in diverse fasi, in vari stati. Quello che lui è, il progetto di se stesso, la rappresentazione davanti al secondino, il rapporto con il detenuto della cella a fianco, il suo passato segreto. Vive rappresentato e rappresentando se stesso in ogni momento. È un'opera di teatro, senza pausa. Il prigioniero può far finta di non sapere, far finta di non capire, fare il distratto, lo scemo, il pazzo. Lui stesso è la sua opera di teatro. E quest'opera, che gli costa la vita stessa, implica una morale da mostrare al repressore e un'altra da mostrare a se stesso. Persino la pazzia ha una logica. Il prigioniero fa finta di essere pazzo per non impazzire. Ciascun momento della pazzia premeditata è una sperimentazione con il linguaggio. Quale dei due sono il pazzo o colui che fa finta di esserlo? La mera esistenza è già resistenza e dà al più debole un potere che il vincitore non ha. Il prigioniero per il secondino è un mistero, non saprà mai chi è. Questo fa del prigioniero un essere potente, libero. Nel mondo disarticolato della prigione, frazionato, scollegato dal grande mondo e a sua volta diviso in parti sconnesse, la parola dapprima si ritrae. Con gli anni, poco a poco, la prigione comincia a riflettersi nel linguaggio. Il linguaggio organizza la realtà, gli dà forma, gli impone un senso e modifica così la realtà. Allora le parole tornano al loro cammino, di libertà, ma la parola è la cultura, e la cultura è proprietà dei vinti, è menzogna, repressione, arbitrarietà, maltrattamento. Sono i militari al governo, la merda estranea della società che è arrivata al potere. Le parole diventano vane, ma fortunatamente il prigioniero arriva a scoprire le parole essenziali, quelle dell'amicizia, quelle della solidarietà. Allora torna a recuperare pian piano la parola, con un certo timore, con molta attenzione. Inizia a tirarla fuori dal sudiciume dove la dittatura l'ha fatta sprofondare. Ricorda quello che già supponeva o accede a una nuova conoscenza. L'essere umano non è soltanto una creatura luminosa o soltanto una bestia. L'essere umano è entrambe le cose e il linguaggio è il riflesso delle due. A dispetto dell'ipocrisia, della menzogna, della corruzione del pensiero e dei sentimenti che ogni dittatura vuole imporre alla convivenza, ci sono parole che hanno un grosso valore e quelle devono essere salvate per poterci salvare. Solitudine e solidarietà, morte e libertà sono state oggetto di riflessione per ogni prigioniero almeno qualche volta. Non importa con quale grado di elaborazione e sviluppo, né fino a dove si è arrivato con le risposte. Detto in poche parole e senza drammi, in carcere sono diventato adulto. In carcere mi sono usciti i capelli bianchi. In carcere mi sono fatti i miei migliori amici. In carcere sono diventato scrittore. Sento dopo tanti anni che qualcosa di quel viaggio al limite della lingua è alla base più profonda di tutto quello che ho scritto e molto più importante nel mio rapporto con la lingua e la libertà. Io vivo una garza amore, dandole combatte un via, assia come un senamore. La luna me está mirando y yo no. passato non si saldano mai, dice Pepe, e il Pepe a Cristina durante la sua intervista. Non si saldano mai, oppure solo parzialmente, alla tua domanda, giusto? Dice che bisogna imparare a vivere con le cose che si perdono, le cose rotte, perché quel che conta di più nella vita è tornare ad alzarsi, e ci si alza soltanto pensando al domani, come la lotta delle madri di Plaza de Mayo. La lotta aspira a lasciare a coloro che verranno cose migliori di quelle che abbiamo avuto noi. E voi? Voi? Tutte le idee di progresso hanno le loro radici da voi, in Europa. È l'Italia con il suo movimento operaio, la sua singolare esperienza di unione dei contadini, le sue cooperative, le rivolte garibaldine, la lucidità di molti intellettuali liberali, l'eroismo della lotta antifascista e l'insurrezione partigiana che ha influenzato le nostre idee, i nostri movimenti qui in Uruguay. Noi stiamo provando a fare la nostra parte. Cerchiamo il nostro cammino, a volte centriamo il bersaglio, altre volte commettiamo errori, ma abbiamo bisogno delle vostre idee, del vostro desiderio di cambiare le condizioni materiali e ideali di vita di questa umanità. Non potete rifuggire questo impegno, voi. Dovete assumere la sfida, pensare, lottare, provare e anche sbagliarvi, ma con lo sguardo rivolto a migliorare la vita dei vostri popoli, a superare questo sistema e questo modello di società che deve essere cambiato prima che ci conduca tutti alla catastrofe. La politica è questo, è la lotta affinché la maggior parte delle persone viva meglio. E vivere meglio non significa soltanto avere di più, ma anche e soprattutto essere più felici. A costo di andare sulla Luna, ha risposto qualcuno da qui, dall'Italia, da Roma, dal nostro paese, da questa città, da quella città ribelle da cui siamo partiti il mese scorso. Noi ce la dobbiamo combattere tutti i giorni dalla mattina con Primo Locchi, e va bene anche se poter pensare di andare sulla Luna e trovare qualcosa di molto più bello. Per me è una lettera direttamente al sindaco. Non è semplicemente la fantascienza che immagina un futuro, è un gioco che si fa sul presente, qui ed ora, si prefigura come se le cose fossero già così. Più che altro una sfida. Ti vado, ma non è. Il viaggio sulla Luna. Stasera abbiamo parlato di un sacco di cose, di tempo, di felicità, di distanza. Abbiamo cantato la Luna, difficile capire da dove partire, non ho preparato assolutamente nulla. E questo film che ho girato insieme a Giorgio De Finis in una fabbrica occupata di Roma, in Metropolis, sulla Prenestina. Forse qualcuno ne ha sentito parlare perché oggi è diventato un museo, il MAM, Museo dell'Altro e dell'Altrove di Metropolis, città meticcia. Noi l'abbiamo scoperta viaggiando per Roma perché non avevamo modo di viaggiare altrimenti, viaggiare spesso prima che contemplare delle distanze, secondo me richiede del tempo. Noi ci eravamo concessi del tempo nel 2010 e nel 2011, Giorgio ed io, per viaggiare per Roma insieme agli Stalker, un gruppo di architetti e artisti che fanno ancora tante cose strane. E girando per il raccordo anulare, alla fine siamo arrivati in questa fabbrica occupata dal 2009 da un gruppo di migranti e persone senza casa, circa 200 persone, in un ex salumificio della Fiorucci, appunto sulla Prenestina verso il raccordo anulare, salumificio abbandonato da parecchi anni e trasformato da questi occupanti insieme ai blocchi precari metropolitani, che è un gruppo che da parecchi anni sta conducendo la battaglia di la lotta per la casa qui a Roma, hanno trasformato in una fabbrica, in uno spazio abitato che nello stesso tempo è diventato uno spazio protetto e quindi uno spazio chiuso, una sorta di piccola prigione. E noi siamo entrati in questa fabbrica con l'idea di fare un documentario su questa realtà, una realtà miticcia in cui vivevano sudamericani, nordafricani, persone dall'est Europa, romani senza casa, quindi appunto una città meticcia come si definiva. Però volevamo trovare, ci sentivamo in qualche modo anche noi, loro erano prigionieri della loro fabbrica, noi eravamo prigionieri forse di una città o di un paese che dopo tanti anni di progetti, di ideali, di tante battaglie fatte, poi alla fine non si arrivava mai a niente. E avevamo bisogno tutti quanti di guardare altrove e quindi abbiamo proposto agli abitanti della fabbrica e a noi stessi un viaggio, un esperimento: costruire un razzo per andare a vivere sulla Luna. Finalmente la battaglia per la casa è una battaglia, non dico persa, però è una battaglia molto difficile. Tutto quello per cui combattono queste persone, ma anche tutto quello per cui tanti di noi combattono, è qualcosa di quasi impossibile, come arrivare sulla Luna. E quindi abbiamo proposto questa sfida, che voleva essere anche un modo per trovare una storia da raccontare che non ci costringesse, come documentaristi e come antropologi, siamo entrambi antropologi, di costruire un racconto di storie di vita, da dove vieni, da quanto tempo sei qui e qual è il tuo passato. Volevamo qualcosa che ci permettesse anche a noi di raccontare una storia diversa e quindi gli abbiamo detto: ok, veniamo qui, però vogliamo raccontare una storia, quella di andare sulla Luna. E da qui è nato un viaggio, un vero e proprio viaggio, è durato un anno tempo, quindi più che distanza, un viaggio in cui abbiamo portato dentro questa fabbrica filosofi, scienziati, astrofisici, artisti, artisti concettuali, artisti figurativi, qualunque cosa. E nel corso di quasi un anno abbiamo colmato una distanza enorme, la distanza che c'era tra noi e loro, e la distanza forse che c'è tra la Terra e la Luna. E alla fine di quasi un anno di lavoro, insieme a loro, insieme agli abitanti della fabbrica, abbiamo costruito un razzo che ancora è presente a Metropolis, di quasi 12 metri, che punta verso la Luna e che però è diventato poi, insomma, abbiamo trovato il modo di ribaltarlo, non poteva decollare ovviamente, e quindi abbiamo deciso di puntare verso, di invertire la direzione, e abbiamo capito che il modo migliore per arrivare sulla Luna era trasformare il punto di partenza nel punto di arrivo, e quindi far sì che tutto il lavoro che avevamo fatto per partire diventasse il lavoro per trasformare appunto il Metropolis nella Luna. E oggi il Metropolis, che continua a essere uno spazio occupato in cui abitano tantissime persone, tra l'altro dimenticavo di dire, è la prima occupazione in Italia inclusiva anche dei Rom, che solitamente non sfuggono sempre anche a queste dinamiche, rimangono isolati da queste dinamiche di rivendicazione dei diritti all'abitare. Oggi è uno spazio abitato, è uno spazio occupato, ma è anche uno degli spazi d'arte contemporanea forse più attivi sul territorio romano, e ci ha permesso di ritornare a parlare di tante cose, di riparlare di viaggio e anche di parlare di utopia, che è una cosa che insomma spesso finiamo per dimenticare. Mochia stesso lo dice a un certo punto nell'intervista, no? Si chiede quanti saranno in grado di ritornare a parlare di questa cosa che sembriamo aver dimenticato, e noi insomma in qualche modo abbiamo provato a farlo, e il viaggio sta in qualche modo continuando attraverso il progetto che sta portando avanti più che altro l'altro regista, Giorgio De Finis, che insieme a me ha fatto il film. Io a un certo punto sono dovuto tornare sulla terra per esigenze molto più materiali, famiglia, figli e altre cose. Giorgio ha scelto una via più ascetica e ha messo in piedi un progetto che è veramente è incredibile. Adesso non è qui a Biella perché stanno facendo un progetto insieme a Pistoletto, poi sarà a Milano per un altro progetto contro l'Expo, che si chiamerà Exploit, come rivoltare il mondo ad arte. E questo è quanto. Noi non possiamo chiudere da soli perché abitiamo questo spazio quando facciamo il Red Reading, e in questo spazio è abitato anche da una compagnia di giovanissimi, proprio giovani, e noi abbiamo chiesto anche a loro qual è il potere della felicità, quali sono i loro pensieri sulla felicità al potere. Chiudiamo insieme. Mujica faceva, che era che cosa mi rende felice. Io ci ho pensato, ci sono parecchie cose: stare in compagnia, stare da solo quando è bel tempo, quando è brutto tempo a volte, e non lo so, però anche pensarci mi ha reso felice. Luna che vedevo allora e che Lucy guardava come me. Nessuno nasce schiavo, neppure di un bisogno inutile che gli altri hanno deciso per te. Nel 1984 si svolsero finalmente le elezioni. Noi tornavamo ad essere detenuti come tutti gli altri. Il 1 marzo del 1984 venne promulgata la legge sull'amnistia e il 10 marzo, fra i primi, in maniera inaspettata, fu fatto il mio nome. Mi incamminai fuori dal carcere, tendendo con forza il mio vaso da notte rosa. La prima cosa che feci fu incontrare Lucia. E da quel momento non ci siamo più lasciati. Il legame che ci teneva uniti, neppure la durezza della carcerazione l'ha potuto spezzare. Il 15 febbraio del 1995 entrai in Parlamento dove ero stato eletto. Ricordo che ci andai con lo scooter, con i jeans e una giacca a vento. Mi fermai nel parcheggio e mi incamminai verso l'edificio. Il poliziotto di servizio mi chiese se avevo intenzione di restare per molto tempo, visto che di lì a poco sarebbero arrivati i deputati. Gli risposi 5 anni se non mi fanno fuori prima. D'altra parte sia la giacca a vento sia i jeans erano nuovi. Ero il primo tupamaro che entrava in Parlamento. Incredibile, quanto sarebbe mai successo? Lucia ed io siamo rimasti dei tupamaro sempre. Pronti a combattere per l'uguaglianza delle persone. Sempre, semplice. Il resto è storia recente. Il 1 marzo del 2010 ho assunto la carica di presidente. Il caso, forse il volere della storia, ha deciso che a presiedere la cerimonia di investitura fosse la più votata del Senato. Chi era? Mia moglie, Lucia Topolansky, bellissima, bellissima dentro quel vestitino cucito dal sarto. Ho giurato proprio davanti a lei la formula di rito. Io, José Alberto Mujica Cordano, mi impegno sul mio onore ad assumere l'incarico che mi è stato affidato e a vigilare e difendere la Costituzione della Repubblica. Lucia, emozionata, mi guardò negli occhi. Signor José Mujica, in virtù della dichiarazione che ha appena pronunciato di fronte all'Assemblea Generale, lei è investito della carica di Presidente della Repubblica. Mi guardò ancora e, più commossa di prima, mi baciò. Quando siamo usciti dal carcere ci siamo resi conto che per vivere non avevamo bisogno di tante cose, ma di poco. Quindi non ci serviva una casa grande, non ci servivano i domestici, vivevamo come vive una persona comune in una famiglia comune del popolo uruguaiano. E quando sono diventato presidente ho continuato a vivere come prima. E quando non sarò più presidente continuerò a vivere come prima. Vivo con un bagaglio molto leggero. Ho fatto le mie scelte, giuste o sbagliate che fossero, ma ho sempre cercato di mantenerle con coerenza tutti i giorni e gli anni della mia vita. Può darsi che io mi stia preparando per il mio viaggio, quel viaggio da cui si dice che non si torna più indietro. Ma ancora lottiamo, finché dura. Lottiamo per essere liberi, e per essere liberi bisogna avere tempo. Tempo per adorare e onorare le 4 o 5 cose fondamentali dell'esistenza dell'uomo. Creatura soggettiva, bisognosa di sentimenti, tempo per una passione folle che emoziona ciascuno di noi e ci spinge verso qualcosa che ci gratifica, chi in una forma, chi in un'altra. Non può esserci felicità umana senza tempo per vivere. E il tempo non si compra, il tempo si paga con la vita. La vita fugge via e se ne va, e la sfida è quella di costruire un'altra felicità umana. Per cosa avete vissuto? Io credo nella natura. Adoro la natura. Se è Dio, allora questo è il mio Dio. La natura è il mio altare. Le anatre parlano, le foglie parlano. La natura biologica è un permanente canto alla vita e alla morte, tutto insieme. Nel campo non esiste solitudine. Il campo è l'emporio della vita che va e viene. Un luogo in cui tutto fa segno, ogni cosa manda segnali. Il problema è poterlo vedere, permettere che ti raggiunga ogni fogliolina, i trifogli. Tutto si sta accomodando per trovare il miglior angolo d'incidenza. Questa è una magia permanente. La vita è un miracolo. Noi Noi non ci rendiamo conto che nella magnificenza dell'universo a noi è toccato vivere in una macchietta di terra. Nel non avere niente, o quasi niente, ho iniziato a dare valore a questa vita, che forse prima come uno stupido non vedevo. La cosa principale è vedere. È vedere. A volte può capitare che uno passi davanti a un paesaggio e non lo veda, ma la vita è un paesaggio straordinario, bisogna vederlo e per questo bisogna avere tempo, anche per le passioni rivoluzionarie, che per fortuna ci saranno, sempre. È inutile, sempre. L'essere umano ne sente il bisogno, è un'esigenza insopprimibile dell'umanità. Un tempo io sono stato un ragazzo che come altri voleva cambiare la sua epoca, il suo mondo, realizzare il sogno di una società libertaria e senza classi. I miei errori sono in parte figli del mio tempo. Ovviamente me ne assumo la responsabilità, ma ci sono volte in cui grido con nostalgia. Chi avrà oggi la forza di quando eravamo capaci di albergare in noi tanta utopia? Mujica ride, ironizza, fa battute. Scattiamo qualche foto insieme, ci salutiamo in modo affettuoso con un abbraccio caldo. Prometto che ritornerò con il libro in mano. Lui sorride e torna a sedersi alla sua scrivania, nel posto che gli spetta. A noi, che da stasera ci incamminiamo lungo la linea del furore, alla ricerca della terra perduta, ci piace pensare che a quella domanda di Pepe, chi avrà oggi la forza di quando eravamo capaci di albergare in noi tanta utopia, c'è una risposta che si porta dentro il potere della felicità e che ci ha lasciato Eduardo Galeano. L'utopia está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve para caminar. Buen camino. ¡Viva la vida! Yeah. Che cambio sempre, non potrò.